San Giuseppe, mio conduttore, dacci figa tutte le ore. San Sebastiano, Barisonia e 28, via dai coglioni. Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina. Mo ti spruzzo l'Autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Io volevo parlare della circoncisione. È una cosa veramente buona. Ah, lo vedi, come Parenzo, Lucia, come no, Parenzo. No, no, no, no, sai perché? Perché, dimmi. Rimane sempre pulito. Dico, i condom, se chi li compra, tu oppure i clienti li porta? No, no, io compro all'ingrosso. Io senza non vado, non tocco neanche senza io. Sì, vabbè, non tocchi, come non no, tocchi? No, no, no, no, no, cioè, no. Anche la bocca, senza... No, no, no, no, no. Tutto no, coperto. Tutto coperto. Io ci tengo la mia salute. Cruciani, ascoltami. Ci sono pieni di trans. Questi qui vanno a ciucciare il cazzo del trans. Il trans gli ciuccia tutto quanto e poi dopo io devo ciucciare senza guanto, ma non penso proprio. Questo che c'entra però? Ma non penso proprio. I due organi. Ma mi fa schifo. Ma anche. Non è la stessa cosa però. Magari lo mettono anche dietro senza guldoni. No, no, no, no, no, no. Parenzo! Ragazzi, grandi novità! Grandi novità in politica! Bella sigletta, devo dire, bella sigletta dopo questa lectio magistralis. Ah, allora, della signora da Pordenone. Allora, ragazzi, grandi novità della politica, anche l'UDC. Io non sapevo che esistesse ancora l'UDC, eh. Cioè, non sapevo che esistesse ancora un partito chiamato... Il partito di Casini. Ma non lo so di chi è, non mi interessa, amico mio, non me ne frega nulla a me. L'UDC, ma cos'è l'UDC? Ancora esiste l'UDC? Comunque, in Sicilia c'è un partito che si presenta, credo, con il signor Musumeci, che dunque non, con Casini, non è di Casini, che si chiama UDC. Grandi rinnovamenti, però. Evidentemente, come dire, le cose sono un po' cambiate, perché un trans operato, cioè senza pisello, si candida con Musumeci nelle liste dell'UDC. Dunque, devo dire, bene, molto bene, la politica fa un passo avanti. Un trans con lo scudo crociato, fa un po' impressione, devo dire, eh? Spunta un trans nelle liste dell'UDC, una tale Giulia Mezza Salma. Ma noi della Zanzara, non so se Parenzo, accogliamo con grande favore questo sviluppo positivo, carità, certo, della politica italiana, dove anche un trans si può candidare nelle liste dell'UDC. D'altra parte, l'UDC, amici miei, figuriamoci, e sono candidati tutti, capito? Dai ladri ai meno ladri, anche un trans ci può stare bene. Vi prego, lo vi dico per il vostro bene, perché date il voto a me come protesta, come innovazione. Proviamoci, sono una cretina, sono una povera deficiente, però proviamoci, perché sta cretina la faccia ce la mette, c'ha il coraggio da vendere. Il programma politico della signora Mezza Salma. Cittadini, compatrioti, conterranei, votatemi. Ricordatevi di votare Roberta Giulia Mezza Salma. Lo scudo crociato, va bene? Un bacio, mi raccomando, e pure non ve lamentate, se no, mi raccomando. C'ha proprio una voce da trans, proprio una voce proprio da trans perfetta, no? Questo era un maschio, ragazzi. Adesso, se tu non me lo avessi, se tu non me lo avessi detto, no, io non no, sto lì a come pensare, no, come cos'è no, uno, cos'è come uno. No, dai, su. Vabbè, non mi interessa niente. Allora, a Genova l'assessore alla sicurezza, che si chiama Garassino, credo che sia la sicurezza, vuole mettere una tassa di soggiorno sui migranti. Sui migranti. Mamma mia, 2,5. Mamma direi mia, un provvedimento mia. Che io definisco bellissimo. Bellissimo. Mamma mia, ragazzi. Scusa, mamma ma perché? Mia. Scusa, mamma come mia. I turisti. Per turisti, ora mi limito a dire mamma mia. No, turisti, per ora mi limito a dire mamma mia. Dai. I turisti incidono su qualcosa? Cioè, devono pagare la tassa di soggiorno i turisti? Questi in fondo non sono anche turisti? Non sono stranieri che arrivano in una zona? Mi non bisogna pagare butade, i servizi? Una butade di una volgarità inaudita. Una butade volgare, per giunta. Ma spero che avremo modo di riflettere e di parlarne, no, dopo. Perché mi pare veramente una parola grossa, riflettere. Riflettere. Riflettere. È una butade riflettere. Volgare. Riflettere. Volgare. Dai. Riflettere. Riflettere. Dai, dai. L'idea è mettere una tassa di soggiorno su ogni migrante che arriva, poi questi soldi vengono investiti per la sicurezza. La provocazione estrema parte dalla forte incazzatura, uso questo termine ugualmente forte, che abbiamo in molte città, Genova non per ultima, la città scoppia, sono quasi 2500, dovrebbero essere dai 1500 ai 1700. Beh, 2,5 euro al giorno, ovviamente pagano le cooperative, chi li accoglie? 2,5 euro al giorno, non mi pare un provvedimento così scandaloso, francamente, no? Cioè, la tassa di soggiorno sui migranti, direi un provvedimento anche virtuoso. Già chiamarla, ma virtuoso di chi? Già chiamarla tassa di soggiorno, la fanno pagare ai turisti eventualmente, quelli non sono dei turisti, quello sono degli ospiti, ospiti graditi peraltro, no, graditi secondo a chi? Me. Perché graditi a chi? Graditi a chi? Graditi graditi al fatto che la loro presenza, senti qua, ci confermano ogni giorno che siamo un paese civile, ti voglio dire questo, cioè la presenza dei migranti, guarda, mi alzo anche in piedi per declamartelo meglio, la presenza dei migranti dovrebbe ricordare a noi, grande democrazia occidentale, che siamo accoglienti, che siamo, ogni giorno rafforziamo la nostra democrazia accogliendo i migranti, questo è il punto. Mamma io vorrei mia, con te oggi mia, affrontare. Viva l'Australia, questa viva è la questione l'Australia, vera. Viva l'Australia, ecco, sempre. Sempre magari, viva l'Australia. Con i coccodrilli attorno. Beh, non sarebbe male, non sarebbe malvagia come cosa. Ma, non cosa sarebbe... ma l'Australia, a parte la natura, ma che cosa ha fatto? A parte il film Mr. Crocodile Dundee, ma cosa ha fatto sei l'Australia? Una grande democrazia. Qual è la cosa dell'Australia? Seppur giovane, una grande democrazia. Una grande democrazia. Ma mette... è una isola nata perché era il ricettacolo di banditi che venivano mandati lì allora, al confine. Allora qual è il problema? Non ho capito. L'Australia diventa adesso un modello di democrazia. Assolutamente sì. Un bel panorama, d'accordo, una bellissima natura, siamo tutti d'accordo, ma adesso non sarà un modello di democrazia allora, l'Australia. Allora, la gente, ragazzi, cita l'Inghilterra, l'America. Sì. Ogni tanto arrivano eccolo qua. Ogni tanto arrivano delle belle notizie, ecco, come quella che è arrivata ieri sera della cattura, dell'arresto in Brasile del signor Battisti, sì, del signor Battisti. Allora, non bisogna però essere troppo contenti. Perché? Perché non bisogna essere troppo contenti? Finché non è nelle patrie galere, finché non è nelle patrie galere questo terrorista, questo infame terrorista, non si può essere contenti. Stamattina ho parlato con molte dei parenti delle vittime, quattro omicidi, condannato per quattro omicidi, signor Battisti. 36 anni da latitante, protetto dai servizi segreti francesi, protetto da quel ladro del presidente brasiliano Lula, perché è un ladro corrotto che è stato mandato giustamente in galera e che ha protetto a lungo e che a lungo ha protetto concedendo l'asilo politico al signor Battisti. Chiaro? Per cui le protezioni sono crollate, il signor Battisti è stato arrestato, adesso vediamo come va a finire, ma la cosa che mi fa rodere il culo è l'ipocrisia dei governanti italiani di queste ore, con anche il signor Alfano che adesso dice faremo di tutto per estradare il signor Battisti. Amici miei, non avete fatto un cazzo per anni, non avete avuto il coraggio di rompere le relazioni con questo il Brasile, non avete avuto il coraggio di non andare alle Olimpiadi come il sottoscritto e anche e soprattutto i parenti delle vittime proponevano, non avete fatto una mazza per anni, non ve ne è mai fregato un cazzo, adesso dicono speriamo di estradare il più presto possibile il signor Battisti. Siete dei falsi ipocriti, perché innanzitutto non avete fatto nulla contro la Francia che ha fatto scappare Sarkozy insieme a Carla Bruni, hanno fatto scappare con i servizi segreti francesi, hanno fatto scappare Carla Bruni, però adesso come no, cosa c'entra vabbè, Carla è una Bruni, storia lunga, dai, è una storia lunga, dai, è una storia lunga. Vergogna comunque, siete ipocriti, vergogna. E intanto nel 2012, dunque probabilmente in Brasile, credo, Battisti concedeva tranquillamente un'intervista alle Iene. Cioè era tanto braccato. A mio parere bisognava mandare lì tipo Mossad una squadra per prelevarlo in Brasile e portarlo in Italia, fottendosi dei rapporti col Brasile. Ma cioè, chi una se lo straordinaria incula? Rendition, cioè, esatto, ma chi se lo incula il Brasile? Ma perché non abbiamo rotto le relazioni diplomatiche? Preso Battisti come gli stati con le palle, preso Battisti come un'operazione con le nostre polizie e portato in Italia nelle patrie galere. I rapporti col Brasile, ma chi se ne frega? Ammazzato quattro persone. E dai, su, veniva intervistato tranquillamente dalle Iene, così come se niente fosse, una truppe delle Iene che arriva là con quello che ride. Ma vaffanculo, ti consideri un perseguitato? No, mi considero uno sfigato. Il tuo esilio è una pena? Certo che è una pena. Definisci la tua pena? Privare una persona dei propri affetti, di non poter tornare nel luogo dove è nato, di non poter rivedere la famiglia. Vivo questa cosa come una grande ingiustizia. Per cui ti senti più vittima o colpevole? Io sono responsabile delle mie azioni, ma mi sento vittima perché secondo me sono stato responsabilizzato per cose di cui non posso prendere la responsabilità. Ti senti? Hai ammazzato quattro persone e ti senti vittima? Che infamia. Ragazzi, non avete fatto nulla, governanti italiani, non avete fatto un cazzo per anni. Adesso volete attribuirvi magari il successo dell'estradizione perché a un certo punto l'unica ragione per cui forse questo tornerà in Italia è perché è crollato quel ladro corrotto di Lula che lo ha protetto e che è stato omaggiato anche da governanti italiani, in primis mi ricordo il signor D'Alema. Fermi tutti. Più una Tania, meno Parenzo. Più una Tania, meno Parenzo. Traffico. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Parenzo, per tua informazione, ha ragione Cruciani, a noi non ce ne fotte un cazzo di niente di Vespa, di Speranza, di MDP. Di Pisapia non ce ne frega un cazzo, a noi ci interessa soltanto se torna Berlusconi e se con Berlusconi torna la vagonata di figa che ci aveva attorno. Basta, solo questo ci importa. Ragazzi, e questo è il numero uno assoluto. Ha ragione lui. Ma che cosa vuoi che ci interessi dei rapporti tra Pisapia e D'Alema? Si discute dei rapporti tra Pisapia e D'Alema nella politica italiana. È roba da pazzi, è roba da malati di mente. Da malati di mente. I rapporti tra Pisapia e D'Alema. La gente ha bisogno di soluzioni, non dei rapporti tra Pisapia e D'Alema. Tu ti rendi conto o no? No, io voglio piangere. Mi segnalano, guarda, che al Museo della Follia di Salò. Sì, dimmi, mi fai parlare un attimo. Mi segnalano. Ah, sì, c'è stato un pazzo. Il museo della follia di Salò. Allora, un matto, Sgarbi dice per colpa di Fiano, per colpa della legge Fiano. Un matto ha sfregiato un dipinto di Hitler. Hitler, sai, dipingeva, no? Era anche un pittore modesto, diciamo la verità, non era un grandissimo pittore. Certo. Però comunque era un imbianchino. D'accordo, ma è pur sempre un dipinto di Hitler, no? Cioè, è come se Trump si mettesse a dipingere, non voglio fare un paragone da Trump e Hitler, no? Comunque fra 20 anni, tra 40 anni, un dipinto di Trump va a qualche valore, no? Comunque anche simbolico. Comunque al Museo della Follia, giustamente al Museo della Follia, espongono questo dipinto di Hitler. Arriva un matto che lo sfregia. Questo avete prodotto voi, i matti che adesso si accaniscono contro i dipinti di Hitler. Lo avete prodotto avete voi? Chi? Tu e tuo padre Fiano, tuo padre illegittimo Fiano. Cioè tu sei il figlio illegittimo di Fiano. Ma tu sei pazzo. Tu sei il figlio illegittimo di Fiano. Io mai condivido chi attacca e quella è la mostra sulla follia. Quindi il dipinto di quel folle pazzo di Hitler ci stava benissimo. E questo qui è un pazzo che nulla ha a che vedere con la politica, con la legge Fiano. È un pazzo scriteriato e basta. Anzi, sicuramente è uno che telefona alla Zanzara. Questo è sicuro. Intanto il generale Pappalardo giura ad Assisi. Il generale Pappalardo. Oggi 4 ottobre 2017 nella città di Assisi, sì, dinanzi alla basilica, sì, di San Francesco, sì, siamo venuti per, sì, prestare giuramento di fedeltà, sì, alla Carta Universale dell'Umanità, di tutti i popoli sovrani della terra. Aspetta, aspetta, la carta universale dell'umanità di tutti i popoli della terra? Ma cos'è, Parenzo? Cos'è? La carta universale dell'umanità? La carta universale dell'umanità? Ma è uno spostato. Ah, ragazzi, ma è spettacolare. Cioè, ma se non ci fosse preparato, bisognerebbe inventarlo. Cioè, si sono messi in posa una decina di malati di mente. Lì insieme pure pare che ci fosse pure un altro signore che si chiama Maschio 100%. A fare il giuramento alla carta universale dell'umanità. Ma che cazzo è? Mamma mia, mamma mia. Giuro di essere fedele al popolo italiano e alla carta universale dell'umanità. Sì. Al fine ultimo di rendere indipendenti, liberi e sovrani i popoli della terra, al rispetto dell'ambiente e di operare contro ogni genere di sopraffazione e di violazione delle norme sulla dignità umana. Ma io spero che questi qua li paghino almeno. Cioè, io spero che questi qua vengano almeno pagati. Cioè, no, ma sai cosa sembrano? Cosa? Sembrano quelle terapie di gruppo riabilitative che si fanno per i malati di mente. Terapie di gruppo. Sì, ho capito. Sì, può essere, sì, bravo. Sì, sai, quelli che si fanno per gli alcolizzati o per i tossicodipendenti, perché da, con tutto rispetto lo dico. Però esatto. È vero, sembra una terapia di gruppo. Una terapia, in questo caso, però, pare, apparentemente non c'è nessun vizio, no? Non hanno nessun vizio queste persone, sì, qua. E spero che vengano pagati, però. Forse è riabilitativa di qualche malattia psicologica, di qualche malattia mentale. Va. Sicuramente. Allora, Luca da Bologna, vai, Luca. Sì, ciao ragazzi, aspettate. Vai Luca, vai, forza, come state? Come state, un cazzo? Del veganissimo, un argomento che avete trattato più volte. Dimmi. Io ho una sorella che era normale, si è sposata con un'altra persona normale, che all'improvviso si è trasformata in vegano, quindi ha trasferito... No, non ti sento bene, non ti sento bene. Massimo da Catania, non mi fate arrabbiare subito. Massimo da Catania, dai. Sì, pronto, mi senti? Sì, dimmi Massimo, dai. Allora, ti volevo solo dire che si dice una trans, non sì, vabbè, me l'hanno già detto, sì, non me ne frega nulla di queste distinzioni. Vabbè, una trans, un trans, ora, non me ne frega niente. Dico quello che mi viene. A me queste cose linguistiche boldriniane mi stanno sui coglioni. Dico una trans, un trans, è una cosa sì, d'accordo, era un maschio adesso si è tagliato. Ma un trans è un'altra cosa. Sì, è vero, hai ragione. Formalmente hai ragione, però non mi fare il precisino perché mi sembra. No, ma che per dai, forza, Massimo, allora, dai. No, tutto qui. Tutto qui, hai telefonato per dirmi sta cosa? Esatto. Roba incredibile, guarda. Marco da Bologna, dai Marco. Eccolo qua. Vai salve. Marco, dimmi. Avevo una domanda per il signor Parenzo. Dai. Prima una piccola considerazione. Proprio nei giorni scorsi su Radio 24 si è parlato di un programma veramente molto interessante, partito tra alcune famiglie di Roma, che hanno deciso di adottare alcuni bambini extracomunitari o figli di richiedenti asilo, o comunque prenderli in affitto, per farli vivere tra le pareti domestiche con i loro figli. Vabbè, allora... per prepararli a un futuro multirazziale. Vabbè. La mia domanda è questa. È possibile che negli ultimi due anni ascoltiamo Parenzo solo ed esclusivamente fare delle parole e nient'altro? Cioè tu dici che perché parole? Non adotta pure lui perché un figlio lui? Di un rifugiato, certo, un bambino rifugiato? Ma, certo. Vabbè, ma ognuno non è che è mica un obbligo di adottare le persone. Certo, quello già c'ha tre figli. Non è che mi deve insegnare lei quali... Non mi deve insegnare lei quali atti devo fare. No, di beneficenza o quant'altro, non è che lo dico a lei. Ho capito, non vuole adottare perché non vorrà adottare, perché non si sente in grado di adottare, ha già tre figli, non è che uno ma se possa mancare un altro figlio, amico mio. Ma quello sono macarotta. Ma crede, ma però Parenzo non è, diciamo, una persona come tutti noi, è uno che professa. Che si espone, dice, siccome si espone dovrebbe adottare un bambino rifugiato. Allora, senta, io pago le tasse perché lo Stato risolva i problemi, non è il singolo che li deve risolvere. Io da singolo posso fare tutti gli atti che volete, ma non li verrò certo a dire alla radio. Vabbè, anche non farli, ovviamente. Fermo lì, o fermo, anche non fare fermo, nulla. Fermo. Oggi sarò qui a Montecitorio. Se tutti avete coraggio, scendete a parlare. Ho strappato l'Inps! Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Zanzara. Aiutateci a riportare il sorriso sul volto di Cruciani, a farlo lavare tutti i giorni, a fargli apprezzare un po' la vita. Un uomo tanto sporco fuori quanto stronzo dentro, un ammasso di rabbia e merda, un uomo che ama provocare solo per il gusto di farlo, che si eccita ai racconti di Vittorio e si spegne alla notizia di un immigrato buono. Aiutiamo Cruciani a uscire da quest'incubo. Dove c'è Cruciani, c'è rabbia. Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024, oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Io a 18 anni leggevo molti libri, io a 18 anni mi ero iscritto all'università, io a 18 anni, oh, io a 18 anni due cose pensavo, alla figa e all'erba. Naturalmente. Parenzo e Cruciani, schifosi schiavi di Banca Intesa, andate a fanculo voi e le vostre banche di merda. Tutto questo sai perché? Perché questo cretino ci ha detto che siamo schiavi di Banca Intesa? Per un motivo molto semplice. Sì, immagino, per ieri. Perché ieri abbiamo semplicemente detto che quella pubblicità, chiamiamola così anche se non è una pubblicità, quella specie di video che era un contest, cioè una gara tra le varie filiali di Banca Intesa, non so per che cosa, che ha fatto il giro del web, che è stato molto cliccato con quella canzoncina finale anche un po' ridicola, buffonesca se volete, da parte di Katia Ghirardi, che è la direttrice di questa filiale a Castiglione delle Stiviere, alla fine è stato un successo per Banca Intesa, che poi ha tentato anche di far togliere per qualche ora ieri durante la giornata, di far cancellare quel video, non rendendosi conto che è impossibile praticamente, perché era già circolato, ormai era nelle mani di chiunque. E quella roba lì andrebbe utilizzata in una pubblicità per strada, dovrebbe essere la campagna, cioè, 2017-2018 di Banca Intesa, perché alla fine nella sua, diciamo, nella sua semplicità e se vogliamo anche nella sua ridicolaggine è molto più significativa di tante pubblicità pagate milioni e milioni di euro, alle agenzie pubblicitarie che fanno delle cose così istituzionali di cui non frega un cazzo a nessuno. Dimmi una pubblicità di una banca che tu ricordi. Non te la ricordi la pubblicità di una banca? Beh, no, una sì, una me la ricordo, ma non voglio fare pubblicità. No, però che ce ne frega a noi? Cioè, beh, quella banca costruita intorno a me, ti ricorderai? Sì, no? Quella sì, è vero, perché c'è il proprietario della banca, no? C'è il proprietario. Qui, lì ti ricorderai lui, sì, appunto, che fa il disegno. Sì, ma roba, quella me l'hai chiesto, te l'ho detto, ma ecco, dico subito, non ho il conto lì, perché altrimenti vedo già adesso su Twitter mi stanno scrivendo, ecco, hai fatto pubblicità. Non ho il conto in quella banca, quindi non rompetemi le palle, scusami se allora, uso di questo nuovo, linguaggio, ma tu mi capisci. Di nuovo, il giocatore di pallone, chiamasi Piqué, del Barcellona, dice perché un indipendentista catalano non può giocare con la Spagna. Non lascio la nazionale spagnola, non voglio dargli la vinta a chi mi fischia, l'allenatore e i compagni hanno voluto che restassi. Amico mio, carissimo Piqué, ancora una volta, ti spiego ancora una volta, te lo dico. Questo tuo atteggiamento è incomprensibile e anche un po' ipocrita, perché se sei indipendentista, cioè se pensi che la Catalogna si debba staccare dalla Spagna perché storicamente, perché Madrid sono degli stronzi, perché vuoi stare da solo, perché vuoi la tua bandiera, non puoi indossare la maglia del re di Spagna, che consideri sostanzialmente non più il tuo re, ma magari un coglione per quello che ha detto l'altro giorno. Per cui non puoi usufruire dei vantaggi della nazionale spagnola, esatto, cioè la gloria, e poi fare il fighetto con la bandiera catalana o con la nazionale, con una presunta nazionale catalana. Ritirati dalla Spagna, tanto ormai sei anche vecchio, ritirati dalla Spagna e vai a giocare in Catalogna e non romperci i coglioni con queste cose. Non puoi, come si dice in termine, come dire, tecnico, fare il frocio col culo degli altri, no? Beh, o no? No, mi pare un po' crudo il tuo linguaggio, però beh, rende molto bene l'idea. Dopodiché il problema lo abbiamo facilmente risolto, perché lunedì non ci sarà alcuna seduta del Parlamento, come vabbè, tu sai, della Qatar. Ma perché ti attacchi a questi dettagli? Ma chi se ne frega perché di queste cose? Perché a me, cose? Ti devo dire, questa storia mi affascina da morire, a differenza tua. Cioè, questa idea che la Catalogna vuole da sola entrare in Europa e staccarsi dalla Spagna. È una storia incredibile, che ha dei risvolti che potremmo analizzare, anche discutere, approfondire, invitare Sergio Romano, che come tu sai. Io la penso come il professor Becchi. Senti che dice il professor Becchi. Vediamo. Il rifiuto della globalizzazione, il fatto che la globalizzazione abbia fallito, il risultato è questo e sono il ritorno delle piccole patrie, mi sembra abbastanza evidente, ma dov'è il problema? Dov'è il problema? Mi scusi, direttore, sì, se sì. Lei con sua moglie, non lo so se sia sposato o meno, me ne frega neanche un cazzo, ma voglio dire, se lei con sua moglie dovesse litigare e alla fine decidere di divorziare, quale cazzo di grosso problema sarebbe nel nostro paese se lei divorzia da sua moglie? Sono d'accordo con quest'ultima parte, non con la prima. Quest'ultima parte alla fine, ma se vogliono divorziare, scusami, ma chi fratello, se ne frega? Fammi capire. Ma chi se ne frega, amico fammi mio? Fammi capire il ragionamento del professore. Dice fammi che capire il ragionamento se si di separano, questo chi se ne frega? Se si separano chi se ne frega? Ne prenderemo ma conto. Ma parliamo di stati, non di marito e moglie. Ma perché è così stupido? Cioè la Catalogna può andare da sola in Europa secondo lui? Ma questo saranno problemi della Catalogna, ma non, a noi che cazzo ce ne frega? Cioè non capisco io che ce ne frega a noi Pappalardo la Brambilla. Nel frattempo, mentre la Catalogna eccetera eccetera, la signora Brambilla dice che in Costituzione dovremmo mettere gli animali. Voi vi rendete conto, ragazzi, a che livello siamo? Mentre tutto crolla, mentre ci sono grandi cose eccetera, la Brambilla fa una conferenza stampa in diretta, la signora Michela Vittoria Brambilla, per dire che dovremmo mettere in Costituzione gli animali. Io vado ai matti, sfascio tutto. In Costituzione gli animali, ragazzi, se succede veramente, se dovesse succedere, vi giuro che chiudo tutto. Chiudo in Costituzione gli animali come esseri senzienti. Chiudere tutto, tutto, chiudere. Noi abbiamo chiamato questo nostro programma Agenda per un'Italia migliore, partendo dai diritti degli animali, il tema a noi molto caro. Il riconoscimento in Costituzione degli animali quali esseri senzienti e la tutela dei loro diritti e del loro bene. Ancora la Brambilla, vi prego, ancora la Brambilla. In cui gli animali sono riconosciuti esseri senzienti, viene da sé che viene modificato il codice penale. Nel passaggio degli animali da soggetti a soggetti portatori di diritti, il fatto che quindi venga arrecato il loro maltrattamento o vengano uccisi diventa un reato contro gli animali stessi. Cioè questa signora che viene oggi ospitata e sulle colonne, spessissimo sulle colonne del Corriere della Sera, come se fosse una statista, viene spessissimo ospitata sul Corriere della Sera come fosse una grandissima statista. No, io dico solo questo, come una grandissima statista. Questa signora dice sostanzialmente: è una notizia, aspetta, però, che gli animali vanno messi in Costituzione e dunque quando tu li ammazzi paghi. Cioè se tu ammazzi un animale o ammazzi tua figlia o ammazzi una ragazza o ammazzi una qualsiasi altra persona, è la stessa cosa. Ragazzi, andate a fare in culo. Cosa vi devo dire io? Cioè, questi sono matti eppure vengono ospitati dai principali quotidiani italiani come se fossero dei geni, degli statisti. Questi vogliono mettere in Costituzione gli animali che sono uguali a tua figlia Margherita o a mia figlia Viola. Ma ti rendi conto o no? Che una violenza commessa su un tordo, che una vicenda, una violenza commessa su un tordo o su un topo o su una maiale è uguale a una violenza commessa su tua figlia. Ma tutto questo bisogna ribellarsi, vabbè, oppure bisogna stare zitti? Ma questo non cazzo è così. Ma bisogna Luca ribellarsi, ovviamente. Dopo Luca che da Bologna, fammi sentire. Ma chi se ne frega? Un animale così. Ah, Luca da Bologna, ma che c'entra? Quello, già ci sono leggi sul maltrattamento, perché mi devi far dire cose ovvie? Dai, appunto, Luca, questo, dai, certo. Ma chi se ne frega? Certo. Luca, certo. Dai. Si equiparano gli animali alle persone umane. Si riflette pure sui bambini. Io ho mia sorella col marito che sono vegani, hanno fatto un figlio, beati loro, l'hanno trattato come vegano dopo i primi 2-3 anni, tutto a posto, poi all'improvviso è venuto fuori che ha problemi, magari non dipende da questo, però problemi di comportamento, cresce poco. Sono andati anche da un pediatra vegano, Luca, però, a Roma, scusa, da denuncia, adesso, guarda, da denuncia. Tu sai che sei, hai la sorella vegana, questo è il problema, la sorella vegana che ha allevato suo figlio vegano, naturalmente ha cresciuto suo figlio vegano, senza vaccini anche? Bravo, esatto. Senza, cioè, amico mio, che te devo dire? Ognuno ha i suoi problemi in famiglia. Hai un problema molto grave, lo capisco. No, vabbè, ma a me non mi frega. Ma perché? Perché non lo parlo? Al discorso dei bambini. Ma la denunziala, cioè, tu. Denunziala tu, scusa. Denunziala. Ma che fai? Denuncia tua sorella. Appunto. Denunciala tu, amico mio. Certo. Vai da carabiniere e denuncia. No, sto scherzando, non denunci nessuno. Però il ritardo mentale non lo so. Adesso questo non lo so. Ma anch'io, sicuramente. Ma se, non come lo sei? So, sei affranto? Come sei? Questa vicenda che cosa ti prova? Ti dispiace? Te lo capisco. Fare di più, ovviamente ti vai a comprare. Lei cosa dice? Cosa dice quando tu li fai presente? Ma ragazza mia, dagli un po' di carne, oppure che ne so, vaccinalo. Che ti dice la sorella? Quando sarà grande, sì, e sarà maggiorenne, avrà la libertà di decidere cosa mangiare. No, amica mia, 18 anni, magari, tu il danno già l'hai fatto, chiaramente. Ma no, magari il danno non è per l'alimentazione, forse anche sicuramente. Amico mio, il problema è questo, ti compatisco, ti capisco, perché sono una setta impenetrabile, perché quando marito e moglie si mettono d'accordo e allevano il figlio è una roba tipo Hitler, cioè vogliono l'obbligo di far crescere bene i bambini, eh? Vogliono creare una setta, vogliono creare una setta degli uomini nuovi come voleva fare Hitler, questo è il punto fondamentale, cioè vogliono creare una stirpe nuova, credo, immune, ma... come no, immune dalla carne, libera e pura dalla carne. Sono una vergogna questa roba qua. Queste famiglie qua che crescono i bambini in questo modo sono una vergogna, perché credono che gli altri sono impuri e loro sono puri. E mi fermo qui. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Lo dovevo fare a nome di tutti gli italiani! Con questa trasmissione della Zanzara della minchia! Sì, Beppe. Questa volta è esagerato. Io sono totalmente dalla parte di Marianne Ismail, di chi colpisce una donna colpisce tutte noi. Non sono una donna, ma hai esagerato. È stato uno schifo parlare delle donne in quel modo. Quindi mi unisco anch'io al coro a Marcella Panucci affinché vi faccia chiudere, perché è terribile. Non si può parlare delle donne in questo modo. Così che ha detto della vagina, una cosa sì, è vero, è uno schifo, non possono essere viste solo così le donne, quindi niente, io mi unisco al dissenso, per favore Marcella Panucci, signora Marcella Panucci, dottoressa, intervenga, perché le donne non sono solo questo, anzi sono tanto altro, la prego, intervenga. Questo è il vero colpo di genio. Hai sentito bene, David, o no, questa roba? Hai sentito tutto, bene? Tutto, sei geniale. Sì, sì, molto. Sì. Allora, ragazzi, io chiamerei a casa del fratello di Battisti. Al casa. Intanto la cosa che mi fa ancora incazzare sono governanti italiani che continuano a dire faremo di tutto per portare Battisti in Italia. Ragazzi, state zitti almeno. Questo è normale. Silenzio. Orlando lo sta facendo il ministro. Sì, per carità, è uno di quelli che ha meno responsabilità, non era ministro prima. Cioè, silenzio, appunto. silenzio. E se questi non ce lo vogliono dare, mandate le truppe speciali, mandate una come fanno il Mossad, mandate quelli a prenderlo. Non fate senza troppe chiacchiere. Secondo me questa volta ce la fanno, guarda. Secondo me questa volta lo riportiamo a casa. Battisti ha ancora dei fratelli in Italia, uno di questi si chiama Domenico. Chiamiamo a casa di questo qua. Pronto? Sì, buonasera, sono Parenzo, salve, cercavo Domenico. Non c'è, vuol dire a me? Mannaggia, sì, no, sono David Parenzo, faccio il giornalista. Lei è la moglie? Sì. Ah no, perché volevo capire questa cosa del fratello, come aveva preso insomma questa notizia dell'arresto. No, non credo che abbia niente da dire. Scusi, signora, sono Cruciani io, buonasera. Sì, Voi a lungo avete avuto contatti con Cesare, no? Sì. Volevo capire come avete preso questa, la notizia dell'arresto. Cioè, nel senso che sperate che resti in Brasile, che non venga estradato, oppure no? Beh, certamente. Cioè, sperate che non venga estradato? Certo. Secondo voi è innocente lui? Sì. Cioè, non ha commesso quegli omicidi? No, assolutamente. Cioè, sono stati processi sbagliati, processi in contumacia, processi falsi? Che idea avete di quello che è successo? Sì, sono stati completamente falsi. Ma secondo lei è finito il periodo di, cioè, il periodo di Battisti in Brasile? Verrà estradato? Qual è la sua sensazione? Non lo so, non lo so. Non ha commesso nessun errore, Cesare, nella sua vita? Cioè, Cesare? Cesare, sì. Cioè, quelle persone, secondo lei, non le ha ammazzate o non ha contribuito ad ammazzarle? Assolutamente no. No, ma e le sentenze allora? Le sentenze sono state frutto di pentiti che si sono divertiti alle sue spalle. Buonasera. E le famiglie... Sì, però anche lui non si è mai proclamato innocente, non mi sembra almeno. Buonasera, mi scusi, buonasera. Scusi un attimo, scusi. Pronto? Sì, anche i parenti del terrorista sono irriducibili, nonostante le sentenze della giustizia italiana, nonostante tutto quello che è successo, nonostante le condanne definitive, eccetera, eccetera, ancora dicono è innocente, la vergogna è stata per anni la protezione di Lula, la protezione del corrotto Lula, il quale ha protetto Battisti in Brasile e ha permesso questo scempio. Lula, omaggiato da tutti i politici italiani, dal primo all'ultimo, adesso ci dicono... No, non da tutti, tranne alcuni di centrodestra. Però Lula, omaggiato da tutti i politici italiani, che hanno baciato la pantofola del presidente facendo accordi commerciali, nessuno ha avuto il coraggio, di rompere le relazioni col Brasile, di fermare un accordo commerciale, eccetera. Dunque adesso non ci vengano a raccontare le cose, vogliamo fare, stiamo aspettando una... Figurati, ma come si fa a interrompere i rapporti commerciali col Brasile? Non lo si è fatto neppure con l'Egitto, nonostante la vergogna del caso Regeni. Ma quella è un'altra sul cosa, caso Regeni. Ma no, come un'altra cosa? Un'altra se cosa. Tu parli di interrompere le relazioni commerciali, non ci sono sentenze definitive, dai, su. Ci deve la dire come Brescia, ma... dai, Lazar da Brescia. Lazar, dai. Cruciani, sono deluso. Sì, deluso veramente. Da cosa di te. Sei deluso, dimmi. Cosa ascolta, perché ce l'hai con gli immigrati, Cruciani? Ma chi ce l'ha con gli immigrati? Se vengono immigrati nel numero giusto a lavorare, non sono. Sono contro l'immigrazione incontrollata. Sono contro l'immigrazione di chi viene a cercare giusto. Felicità, chi viene a cercare lavoro. Non me ne frega un cazzo del lavoro, perché non si viene qui a cercare lavoro. Dovremmo ospitare milioni di persone. Chi cerca lavoro non venga qui, vada da un'altra parte. Cioè, non, se poi ci sono ogni anno ci sono le quote necessarie, ci sono le quote, vengono qui quelli con le quote e basta, non con i barconi, i rifugiati. La felicità la ferma con le quote lui, le quote, ascolta, le quote, la fame la ferma con le quote lui. Cruciani, non siamo bambini a prendersi in giro così, perché prima sentiamo la voce, il tono, il tuo tono è diverso proprio. E poi io ma chi il tono di chi? Il tono di chi? Il tuo e anche quelle teste di cazzi che ogni tanto fanno una tassa per gli immigrati, pagano. Ma noi siamo esseri umani, ce l'abbiamo di famiglie, ce l'abbiamo di bambini, ce l'abbiamo. Ma la tassa lavoro. Sugli immigrati no. Che vuole mettere il comune di Genova, non la vuole mettere, non vuole far pagare gente, gli immigrati. Pagassero, pagassero chi guadagna dall'immigrazione, le cooperative, e pagassero 2,50 euro al giorno per la presenza degli immigrati. È un po' una provocazione, ma va bene. Pagassero la tassa gente. Di soggiorno, pagassero la tassa di soggiorno. Non queste mi pare una cosa così bizzarra, dai. Queste gente sono da denunciare. Ma da chi? Denunciare chi da denunciare? Queste gente che questo tipo qua, non lo so, di questi di Genova, esempio. E la colpa alla fine non è di queste qua e basta, è la colpa degli immigrati, cazzo. Perché gli immigrati anche, chi è devono tutti noi regolari dobbiamo parlare, dobbiamo uscire anche a fare manifestazione. Manifestazione perché cosa? Gli immigrati. Manifestazione ascolta, di che? Ascolta. un discorso come il tuo, quello che l'hai fatto adesso, no? Quella è la tassa. La tassa è una provocazione, ci può stare, mica pagano gli immigrati. Mica pagano gli immigrati, pagano le cooperative, dai. Ok, va bene. Ma il classico italiano, il giorno dopo, no? Come fa la differenza, porca puttana, tra un immigrato regolare e uno clandestino o uno stupratore, esempio? Ma che c'entra? Aumentate il razzismo qua. C'entra, come no? Ma voi siete nessuno, tu che sei, tu che sei marocchino? Tu sei marocchino? Sei marocchino? No, che cosa sei tu? No, provengo dall'Algeria, ma sono quasi cittadino italiano. Sei cittadino italiano, regolare, sei cittadino italiano, regolare, che problemi c'è? O no, una volta ero anche senza lavoro e una volta mi sono passato, ho fatto il percorso che le sta facendo adesso un immigrato che le stai prendendo tu in giro adesso. Ma io non cazzo. Sto prendendo in giro nessuno, cazzo. Sì, se non sei tu, c'è il classico Salvini, la Santanché del Debbio e la compagnia bella. Ma vergognate, anche noi abbiamo di sentimenti, cazzo. Tu sei mi sento deluso davvero. Sei muslim? Tu sei muslim, sì, no? Sono musulmano, sì. Sei muslim. Sono musulmano e mi comporto bene e amo questo paese. Ti prego, Lazar, certo. Ti prego, dimmi una cosa, che sai che godo a sentire questa cosa, Allahu Akbar. Ti prego, dimmelo. Già me l'hai detto una volta, mi sembra, però questa parola è una parola sacra e non, sì, non dimmelo, ti prego, dimmelo. Dimmelo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Parla di squirting, che è meglio per te. No, io parlo di squirting quando mi pare. Non è che se devi dire tu quello di cui posso parlare o no, capito? Cazzo. No, se vuoi, ho detto se vuoi. Un appello apparenzo. Eccomi qua. Fai qualcosa di più, per favore. Dai, Parenzo, ti voglio molto bene. Fratello mio, grazie. Ci provo, fratello mio, grazie. Siamo qua insieme, fratello. Con queste razzisti di non merda, ti preoccupare, davvero una vergogna. Siete due personaggi patetici. Non farti spaventare da quei quattro poveretti, no, che telefonano qui nulla facenti e anche nulla tenenti spesso. Noi siamo musulmani seri 100% e ci crediamo. Tu non credi un cazzo. Allora ragazzi, c'è una coppia formata da due personaggi conosciuti, due personaggi pubblici. Una è Francesca Barra, che peraltro è anche una mia amica, e l'altro si chiama Claudio, amica, sì, anche tu amica. Un altro si chiama Claudio Santamaria, che è un attore che tutti conoscete. Vabbè, questi due si sono messi insieme, lei ha lasciato il marito, lui chi ha lasciato, lei ha dei figli. E sono bersagliati dal web, addirittura in modo pesante. Uno ha detto: i tuoi figli vanno arsi vivi. Vabbè, sono cose assurde, di cui chi ha scritto queste cose risponderà davanti alla giustizia. C'è un fatto, però: c'è un signore che è un funzionario della regione Basilicata, che si chiama Domenico Mimmo Leccese. Domenico Leccese, detto Mimmo, che è un funzionario della regione Basilicata, che è la regione dove è nata la signora Barra, residente a Milano, peraltro vicinissima a casa mia. Questo signor Leccese da qualche tempo segue con attenzione la storia d'amore, per motivi suoi, non capisco, la storia d'amore tra la Barra e Santa Maria. Sarà uno stalker? Bah, uno stalker, diciamo, su web, sì. Ha scritto qualche tempo fa: praticamente da tempo scopano a Roma e a Matera. Mamma mia. Dopodiché ha scritto anche: l'ultima figlia della Barra, nata 7 mesi fa, ha lineamenti a carnagione scura, secondo i ben informati che lasciano intravedere la somiglianza con il papà lucano, e Santa Maria è per metà lucano. Cioè, questo qua dice sostanzialmente che il figlio che ha avuto, schifo, l'ultima figlia che ha avuto la Barra, non ce l'ha avuta con il marito, poi successivamente ha lasciato, ma questi sono affari suoi, ma ce l'ha avuta col signor Santa Maria. Che persona vergognosa. Ora, questo Leccese è funzionario della regione Basilicata, e io una telefonatina gliela farei, vai. Allora Leccese, buonasera, sono Cruciani, Radio 24, salve. E Parenzo. Ah sì, salve. Senta, ma come si giustifica per queste cose, per questi messaggi mandati sulla coppia Barra? Io non mi devo giustificare nulla. devo prendere solo le distanze perché il secondo post non è mio. Quale post? Quindi, quale post, scusi? Quello là delle offese e delle accuse. Lei sta parlando del caso Barra? Sì, certo, non c'è dubbio. Sì, certo. No, ma il post, l'ultima figlia della Barra nata 7 mesi fa, ha i lineamenti e carnagione scura? È quello là, e in effetti è solo una ironica goliardia. Come goliardia? Lei sospetta che il figlio... Io non sospetto nulla. Ma come no? Se c'ha già questa idea, no, che me lo chiede a fare? No, Leccese, io leggo questa cosa. Leggo, e che cosa c'è scritto? Non ho nessun pregiudizio nei suoi confronti, leggo. L'ultima figlia della Barra, nata 7 mesi fa, allineamenti a carnagione scura, secondo i beni informati... quindi ho accolto dilazione da gente della Ma ho capito, ma che c'entra? Non ho scritto... Che cosa? No, ma scusi. Posso scrivere? No, lei può scrivere quello che vuole. Lei può scrivere quello che vuole. Deve pagare le conseguenze di quello che scrive, caro. Certo. Il messaggio finisce così, che lasciano intravedere la somiglianza con il papà Lucano. Che lasciano intravedere? Il papà è Lucano? Metà Lucano, Santa Maria è per metà Lucano. Non mi prende in giro. No, lei si riferisce... Non ci prendiamo in giro. Lei si riferisce... riferisce chiaramente a una presunta, come dire... Nessuna attribuzione di paternità. Come no? A un'attribuzione di paternità? Comunque gioca con questa cosa. Gioco con questo come si gioca sul gossip. Ma non è la stessa cosa il gossip, dire quei due scopano piuttosto che il figlio non è del padre ma è di Santa Maria. Perfetto, non ho detto questo. Ma lei ha detto, a parte che i messaggi privati a Francesca Barra, lei dice fatti il test del DNA in alcuni messaggi. Dopo uno, quando lei mi ha detto che mi avrebbe denunciato, ci ho scritto questo. Ma ho capito, ma lei perché sospetta? È una risposta in privato. Io posso scrivere un post fuori dall'orario d'ufficio. Ma perché secondo lei sono esibizionisti? Sì. L'hanno fatto per esibizionismo? Sì. Ognuno può fare l'amore libero con chi cazzo vuole e non mi sono permesso. Ma lei fa il funzionario della regione? Lei fa il funzionario della regione? 24 su 24, amico del sole, non l'ho fatto 24 su 24. Ma lei ha un ruolo pubblico in qualche modo? Ha un ruolo pubblico? Ma faccia capire che significa. Lei ha un ruolo pubblico in una regione dove la ragazza lì, Francesca Barra, è residente, dove ha la famiglia, dove vanno i figli, chiaramente vengono spernacchiati e sbeffeggiati perché lei ha scritto cazzate. È la sua convinzione. No, ma scusi, ma è una realtà. È stata lei la prima a mettere in mezzo i figli, a fare gli spot con i figli e compagnia. Quindi, ma lei può fare quello che le pare. È la persona che non deve offendere è lei. Io non offendo. Ha capito? Allora lei ha perso una grande occasione. No, amico del sole, un cazzo. Lei, primo, io mi auguro, sono parenti. Io mi auguro che lei. Il cazzo te lo tieni in bocca. Io mi auguro. Io mi auguro. Quello mi pare che sia lei un esperto. Aspetta. Mi pare che sia lei un esperto di volgarità. Lei è un esperto di volgarità. E si vergogni. Si vergogni, criminale. Lei deve essere immediatamente destituito dalla regione. Criminale. Destituito deve essere per quello che ha scritto. Scusa. Lei è indegno. Lei è un criminale. Criminale indegno. Leccese, scusi un attimo. Perché lei sospetta? Perché tutti quanti? Criminale indegno. Perché lei sospetta che il figlio... Lei ha gettato questo sospetto che il figlio della Barra non è figlio del marito, dell'ex marito, ma è figlio di Santa Maria. Diciamoci la verità. Ha gettato questo sospetto. E questa cosa qui è grave. È un'illazione che ho buttato avanti. Ma non è come uno butta un'illazione sui figli. D'accordo. Ma è normale. Criminale. Vabbè. D'accordo. La parola criminale il tuo collega la paga. Ma criminale il tuo collega la parola criminale hai commesso un crimine, ma che hai tirato, hai messo in ballo, ha tirato in ballo i bambini. Criminale. Criminale. Lei deve essere licenziato e sospeso immediatamente. Leccese, volgare. Hanno chiesto la tua testa alla regione? Sì. Cioè hanno chiamato il presidente? No, dico, tu che intenzione hai? Ti dimetti, non ti dimetti, che fai? Allora, io ho fatto questa operazione al di fuori di lavoro, non c'ho nessuna responsabilità. 17 luglio ore 16:08, potete chiedere tutta la testa, avrete un paio di coglioni, non la mia testa. Indegno volgare. Allora, il problema qual è? Posso anche dire che ho esagerato e sono stato esagerato con lo scritto con la go. E si limita là. Io non ho fatto nessuna cosa e nessun riferimento. Ma ti rendi conto che il figlio... al figlio di Francesca Barra dicono a scuola, da quello che mi risulta, da quello che mi hanno detto, a scuola, ma è vero che tua sorella non è figlia di tuo padre ma di un altro? Ma perché non ci crede? Per colpa di questo qua? Assolutamente no. Hai parlato con lui o no? Al telefono? Sì. Con lei no? Ah, con lei no. Che cosa ti ha detto lui? Niente, che voleva, come si chiama, prima di tutto essere dato del lei, dopo che lui mi ha dato del tu nei video. E poi? E poi basta, ha detto che lui per telefono non parla. Ma l'hai chiamato tu? L'ho chiamato io, sì. E che l'hai chiamato a fare? L'ho chiamato lei per chiedere scusa eventualmente. Per chiedere scusa? E allora vuoi chiedere scusa? Perché non chiedi scusa di aver scritto che forse il figlio... Chiedo scusa per quello che ho fatto. Chiedi scusa di aver attribuito il figlio a Santa Maria invece che al vero padre? Tutto. Chiedi scusa, umilmente scusa. Chiedo umilmente scusa se lui però, come si chiama, rimuove il discorso dell'abbinamento con la gotica. L'abbinamento? Ma lo facciano. Non lo deve rimuovere, perché è lei che ha iniziato tutto. È lei che ha fatto tutto. È lei che ha scatenato tutto con i suoi commenti. È lei che si deve dimettere immediatamente dalla regione. È lei che deve ritrovare la ragione del silenzio. Cerca di trovare ragione in testa quando parli. Ha una moglie? Ci state marciando in mano. Lei ha una moglie, una compagna? Non sono cazzi vostri. Ma come vede queste cose? La sua moglie, la sua compagna, la sua fidanzata, se ce l'ha? Non sono cazzi vostri. Va bene così. Non sono cazzi nostri, invece lei può raccontare i cazzi degli altri. Lei può dire quelli scopano e quello è un figlio che non è il suo. Scrivilo anche a me. Ah, roba incredibile, guarda, allora, perché non siamo problema, come lei noi. È perfetto, però stai dicendo criminale. Allora il problema qual è? Quando due persone sono persone. Lei per me ha commesso un crimine. Lei per me ha commesso un crimine e deve essere processato e deve essere licenziato dal suo posto di lavoro pubblico. D'accordo, ti porto anche a te in tribunale, non ti preoccupare. Ma per fare cosa? Non vedo l'ora di incontrarla, guardi. Non vedo l'ora. Stanno cercando, risalto dappertutto. Hanno chiamato ci manca solo la stampa estera. Cioè, tu dici, sono loro che cercano assolutamente pubblicità da questa cosa. Ma perché hanno bisogno di pubblicità? Quello fa l'attore affermato, il regista affermato, quello fa la giornalista. Che pubblicità cercano? Non lo so. Te ne vai dalla regione o no? Assolutamente no. Ve ne andate voi dalla radio. No, ma dalla radio col cazzo che ce l'abbiamo. Questo non credo. È più facile che lei se ne vada dalla regione. No, ma io mica ho detto che si deve dimettere. Io non ho detto che si deve dimettere. Io penso di sì. Sarà molto difficile. Io non ho detto che si deve dimettere. Pagherete anche lei. Stai dicendo, te ne vai dalla regione. Io sono pronto a fare una campagna virale sulle sue dimissioni. Puoi fare quello che vuoi. Perché lei è una persona che ha commesso, a mio avviso, un crimine. A tempo perso. Fatto anche qualche masturbazione. No, io ho tanto tempo libero e passerò le mie giornate a fare una campagna per le sue dimissioni dalla regione. Comunque lei ha detto anche che loro cercano pubblicità e sono esibizionisti, e su questo chiudo. Arrivederci, buonasera. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. La pubblicità. La zanzara. Parenzo, tu hai un solo obiettivo, che è quello di estirpare la prostituzione da questo paese. Eliminare tutti questi miserabili, mandare a loro a casa le multe, farli divorziare dalle loro mogli. Parenzo, aiutaci, libera questo paese dai miserabili. Quando David parla di prostituzione, a me viene voglia di andare subito con una prostituta, analfabeta funzionale, nazista, che ce l'ha a morte coi rom. Vorrei dire a quel coglione di Parenzo e, tra virgolette, Nardella, che se io vado a Troie ci sarà un motivo, visto che ho la moglie malata, ho 45 anni, ho ancora una bella voglia di fare le cose, perciò secondo te che devo fare? Dopo che me lo sono smanettato da solo, che devo fare? Idiota, venga, lo so io che devo fare. Devo venire dalla tua moglie, Parenzo, oppure dalla moglie di Nardella. Tanto grossi problemi non li dovrei avere, ma forse la tua moglie, Parenzo, va bene? Ciao da Massimo, se vuoi chiamami. David Parenzo, guardi, ci sono prostitute, ci sono gigolò che hanno la capacità non solo di soddisfare sessualmente il cliente, ma anche di metterlo a proprio agio e di aiutarlo psicologicamente. Dipende ovviamente dai soggetti. Perciò la prostituzione per alcuni soggetti è benefico. Allora, caro Davide, ti leggo una cosa tutte che è uscita. Giustificazioni sono, giustificazioni, ma che giustificazioni di questi sono, qui che ovviamente sono, per giustificare i loro, le loro porcherie, ovviamente dicono no, io ho la moglie malata, quell'altro no, non commento neanche quello che ha detto quello lì, figuriamoci su Nardella, insomma chi se ne frega di questo volgare. Ma se questo veramente ha la moglie malata e dice alla radio che ha bisogno di andare a prostitute, lui ha bisogno di un bravo psicanalista, secondo me. Ma perché? Me, qual è il problema? Curarsi. Ci sono mogli o mariti che sono magari stanno male e le donne o vanno con i gigolò o si trovano un fidanzato o fanno quello che vogliono. Sì, ma io penso che intanto non lo dovrebbe dire alla radio. Ma quello sono cazzi loro, ma che c'entra? Una cosa, ma che c'entra una cosa, quindi questo? Già questo la trovo un po' da malato di mente, già il fatto di dover rivendicare che va con le prostitute, cioè uno dovrebbe essere umiliato dal fatto di doverci andare, no? Ma non perché è che umiliato? È orgoglioso perché di umiliato? Invece questi macisti, questi, dovrebbe essere umiliante andare con la prostituta. Ma perché questi umiliante? Macisti fanno passare l'andare con la prostituta come fosse... Ma qualche è volta è straordinario, ma quale umiliante? Secondo me, dici? Se sei un uomo è umiliante non riuscire ad avere un rapporto normale con una donna, dover pagare. Ma guarda che c'è no, una marea di non lo è guarda, perché non ci vado. Sì, ma guarda che c'è una marea di gente lo che considero va, ovviamente c'è, umiliante. C'è una marea di gente che va a prostitute e scopa tranquillamente con compagne, fidanzate, eccetera. Cioè, non è, non è necessariamente in contraddizione. Gente malata di sesso, allora, gente questo, naturalmente malata. Sì, questo pezzo di merda di Battista. Nonostante l'arresto e nonostante il fatto che l'Italia chieda l'estradizione, che il presidente sembra voler togliere l'asilo politico a questo signore, dice: non temo l'estradizione, sono protetto dal decreto Lula. Decreto Lula di un presidente corrotto, di un presidente corrotto, ladro, che è stato omaggiato, che è stato omaggiato lui, icona della sinistra, il signor Lula, ricordiamola questa cosa qua, icona della sinistra mondiale, omaggiato da tutti i capi di Stato, amico di Sarkozy, amico di D'Alema, amico di molti politici italiani che adesso fanno i fighi e dicono no. Sarkozy non era di sinistra. Ma Sarkozy non è di sinistra. Era presidente della Francia, non c'entra niente di sinistro, era presidente della Francia. Però non era di sinistra. Che ha fatto dei disastri lui e la moglie e la fighetta l'altra come si chiama? La signora Carla Bruni, no, che è una delle Beato responsabili lui. Delle della mancata estradizione di Battisti in Italia. Si chiama Carla Bruni, chiaro? Sono protetto dal decreto di Lula. Sono protetto dal decreto di Lula. Mamma mia, come aspettiamo l'arrivo di Battisti in Italia. Come l'aspettiamo, amico mio. Se no, se non ce lo danno, bisognerebbe fare un'operazione in stile Mossad. Stile Mossad. Vi voglio far ascoltare però quello che ha detto la signora Ilaria D'Amico martedì sera, durante la trasmissione di martedì del signor Floris, a proposito della corruzione, perché è una dichiarazione molto interessante. Era un dibattito in cui c'era anche il signor Pier Camillo Davigo. Cioè la posizione è questa: è meglio un politico corrotto che fa le cose oppure un politico oppure la corruzione è la prima cosa? Mi dispiace essere realista, ma sopportare qualche corrotto è meglio che non avere lo Stato rotto, cioè che non avere lo Stato che... Io non sono più purista come un tempo. Vabbè, al di là del fatto che la D'Amico non è più purista come un tempo, e uno se ne può fare anche una ragione, però il punto fondamentale è questo. Dice la D'Amico: meglio qualche corrotto che lo Stato rotto. Io, devo dire la verità, non sono assolutamente d'accordo con questa cosa. Non si capisce perché le due cose debbano essere in contraddizione. Ci mancherebbe cioè, l'onestà esatto. di una persona, il fatto che non tocchi un euro di denaro pubblico, che non faccia clientele, che non assuma parenti, che non faccia lo schifo che succede invece regolarmente in Italia, è una condizione, direi quasi... con un termine aulico, una precondizione, si potrebbe dire, no, una precondizione Bravo. Per fare il politico. Cioè, se non hai queste condizioni, se sei un maiale come pare essere quell'altro signor Caruso che ha assunto uno perché gli ha chiesto il sottosegretario, ma in realtà non ha mai lavorato con lui e poi voleva mettere le mani addosso alla sua stegista sottopagata, non pagata e non assunta dalla Camera o dal Senato, dove cazzo è questo signore. questo è il punto fondamentale, no? Cioè non devi essere così, questa è la precondizione, non devi essere così. Vabbè. Mi pare una grande sciocchezza, ha detto una sciocchezza. Poi lo Stato rotto, che vuol dire lo Stato rotto? Lo Stato è rotto perché ci sono politici corrotti, questo è il problema. Pure secondo me ha detto una sciocchezza, non c'entra nulla. Poi che significa non essere puristi, cioè che la corruzione è da tollerare. La corruzione esiste ed esisterà sempre, non è che c'è, no, da tollerare. È sbagliato, no? Il ragionamento, scusa. Il suo ragionamento è sbagliato. Lo Stato è rotto e funziona male perché ci anche sono perché, politici corrotti e affaristi. Cito contro Trefiletti, spettacolare battaglia, ovviamente Scedurso. No, anzi, no, credo che sia. Chi è? Olano, no, dalla vostra parte. Dalla vostra parte. Mi fa impazzire il titolo. Dalla vostra parte. Ti fa impazzire il titolo della trasmissione? Dalla vostra parte. Di chi? Parte. Sì, molto, mi fa arrabbiare, ma dalla parte di chi poi? I figli dell'onorevole Giancarlo Cito, dottore, sono stati eletti dal popolo perché il popolo sono andati nella cabina e li hanno votato. Ma chi li ha messi in lista? Chi l'ha ma messi tu lì? Pensi davvero che i giovani tua possono sorella mettersi nelle liste? Tua sorella l'ha votare messi o che altro? Sì o no? Ma questo sì, non gli è normale. Non è vero che uno assume una persona e non lo paga. Se il portaborsa firma, vuol dire che firma il falso. E quindi è colpa del portaborsa. Allora, quindi è complice anche il portaborsa. Quindi ma quella per ragazza, carità, adesso ce la prendiamo quella ragazza con i giovani, era complice. Li precarizzate e era per complice perché offendete. Si faceva dare ma di meno. Ma come vi permettete? Ma come perché vi la legge? Ma mettetelo un tappo in bocca, mette, stai zitto. No. Io non ma sono stai normale. stai zitto perché tu dici un sacco di fesserie qui, davanti lei a queste dice cose un sacco di fesserie. Mai zitto, le caro Cito, hai capito? Ma se, mai ma zitto stai zitto no, io bla, parlerò bla bla. Allora, Mauro da Padova, vai Mauro. Mauro, sì. dimmi. Ciao Cruciani. Vai, dimmi. Sì, volevo dirti riguardo agli animali, so sì. Che tu tratti male gli animali. No, giusto? Non tratto male nessun animale, guarda, non ho mai fatto nulla contro gli animali, non ho mai toccato un animale in maniera improvvida, in modo che non si fa, non ho mai maltrattato nessun animale, dunque non mi rompere i coglioni su questo, perché io gli animali, amo gli animali molto più della brambilla e degli altri animalisti, che ne fanno invece un feticcio, che ne fanno un tabù, che ne fanno una specie di simulacro e che in realtà pensano a se stessi, non agli animali, alla propria soddisfazione politica barra di vita, quello che è. Sì, Paolo, allora... Però tu ne parli male, non vabbè, è che tu insisti, vabbè, bastoni se sei convinto animali, di questo, vai avanti, che ti devo dire? Cioè? Anche... No, tu parli male per esempio del pitbull, giusto? Ma non ho detto il pitbull, ho detto che non mi piace il... Posso dire che non mi piace il pitbull? Devo amare per forza il pitbull, che è un cane di merda, che mi fa schifo solo a guardarlo il pitbull. No, mi fa schifo a me. Marco, ma se me... Guarda ragazzi, è incredibile. Se a me mi fa schifo il pitbull, lo posso dire che mi fa schifo il pitbull, sì o no? Cioè, a ma me fa che... schifo Mauro da Mantova. Va bene, a me fa schifo il pitbull ma quando allora, lo guardo, mi fa orrore. Che ma che ti devo dire? Ti tratti male, poverino, perché gli dici che fai schifo? No, scusa, schifo. Ma ragazzi, ma qualcuno di... una ma male di come fai a dire che ti fa schifo il pitbull? Ma io non ti capisco. Ma non ho capito, ma qual è il problema? Fare. Ma perché? Ma che modo di dire? Ma se guarda un pitbull mi fa schifo come razza, non mi piace. Ma che modo di ragionare è? No, no, cosa Luciani, cosa devo vuol dire, dire che mi piace, va bene, d'accordo. Avanti Luciani. Mauro, dimmi. No, non devi dire che ti piace tu. Ecco, per esempio, mi scrive Guido Bagatta. Mi scrive Guido Bagatta che ha un bellissimo cane che si chiama Margot. Ma e che ne è sa un, Bagatta è un che si occupa solo di donne, Bagatta. Che no, ne no, sa no, di fermo cani? Con questo argomento, fermo, ti prego. Esperto? Ti prego, ti prego, no, prego. Voglio no, dire, no, ti prego, più, ti spiegherò. Da quando sta ti con questa ti spiegherò, ti prego, fermo con questo argomento che si occupa solo di donne, fermo, ti prego. Fermo, ti prego, sto camminando su un terreno minato. No, che non sai nulla di questo, di quello che è successo dopo l'intervista qui che ha fatto. Lasciamo perdere questo. No, ma dopo ti spiegherò. Allora però, voglio il parere di Bagatta sugli animali. Chiedo no, ma scusa. È un grande animalista Bagatta. Discutiamo sì. Moltissimo. Io lo anche. Conoscevo anche come un altro grande esperto di altri grandi temi. Ma se tu mi dici di non parlarne più, no. Io ligio alla tua regola mi fermo. Innanzitutto, cioè, Bagatta è conosciuto come grande esperto di sport. Cioè, e anche. Barra no. Slash io barra, metterei sport che non è un crimine slash, però che non è un crimine cucina che non è un crimine cucina, che non è un crimine cucina, però non è un crimine cucina dai, comunque la ragazza ha un bellissimo cane si chiama Margot che è un Basset Hound nome da donna, ovviamente il cane anche lì. Margot, vabbè. Sì, vabbè, ragazzi, vabbè, vabbè, ho capito. Pure gli animali femmine, è cioè, un vabbè. Cane, è un vabbè, cane vabbè, meraviglioso, vabbè. Bellissimo, che mi fa anche delle feste quando quindi lo è vedo. È una cagna, diciamo allora. Sì, è una cagna, bravo, è una cagna. No, per capire, cagna. Faccio per capire. Ma qual è il problema? Non ho capito, cioè qual è il problema? Cioè, la amo tantissimo la Margot. Questa Margot. La grossa. Adesso parliamo di Margot, ma dai. Su Radio DJ fanno anche la Margot che abbaia, cioè, Mauro, vai, dimmi che c'è. Sì, Cruciani, ti volevo solo dire che appunto tu maltratti i cani verbalmente, soprattutto il pitbull, e volevo dirti che no, io dice, conosco uno Bagatta scrive tratti male Margot, ma non tratto male Margot, che cazzo dici? Ha ucciso un pitbull. Chi ha ucciso un pitbull? Un uomo. Ma è sbagliato persona, se tu ammazzi un pitbull, ma cosa vuoi che ti dica? Ma se tu ammazzi un pitbull, a meno che quel pitbull non ti stia venendo incontro per azzannarti lì a quel punto. No, perché tu avevi parlato male del pitbull che aveva ucciso. Beh, certo, ha ucciso una bambina che bisogna far abbattere. Probabilmente era stato educato, addestrato male. Ma e posso quindi dire che i pitbull non mi piacciono? Posso quindi dire che vanno messi al bando i pitbull? Beh, al bando. E quelli che uccidono i pitbull sono umani? Cosa facciamo? Ma i fascisti vanno messi al bando, no i pitbull. Danilo dalla provincia di Varese, dai. Danilo dalla provincia di Varese. Avanti. Molto? Danilo, dimmi, dai. Sì, allora una provocazione riguardo al discorso del la provocazione. Sono tutti che fanno le provocazioni, avanti. Sì, certo, perché io farei proprio quello che hanno fatto i francesi per anni. I francesi per anni non hanno dato l'estradizione ai terroristi italiani. Vero, giusto. Io farei la stessa cosa. Cioè, non abbiamo terroristi, però purtroppo non abbiamo terroristi francesi nelle nostre mani, amico mio. Però se magari qualcuno fa qualcosa là, ce lo teniamo qua bello tranquillo, lo mettiamo pure. Vabbè, non mi pare una grande ritorsione. Sì, è una roba vecchia, amico mio. L'unica cosa che si può focaccia, no, l'unica cosa come fanno dalle parti di non abbiamo le palle, perché in Italia sappiamo buttare fuori le vecchiette dalle case terremotate, vero, e abbiamo mezza Italia che è abusiva. Abbiamo una sala intitolata Giuliani, vero, e abbiamo la Baraldini che siamo andati a prendere con la macchina blu. Non abbiamo le palle, punto. Cioè, vero, hai ragione. Ma la Baraldini, ma si sciacqui la bocca per la Baraldini. Ma si sciacqui la bocca per la Baraldini. Ha perfettamente ragione. Lasciamo dire quella degli Stati Uniti. Sì. Silvia Baraldini, ma si sciacqua la bocca. Allora, al di là del caso Baraldini, grazie. Ah, Danilo, al di là non sa neanche chi è. Vabbè, Baraldini, ragazzi, non parliamo di cose che la gente non conosce. Allora, la cosa fondamentale è questa: che dove sono? La domanda che voglio fare è questa: dove sono finiti? Dove sono finiti tutti quelli, gli scrittori italiani che hanno appoggiato per anni il signor Battisti? Dove sono finiti? Escano fuori a dire la loro, a dire che non bisogna estradarlo. Abbiano il coraggio di venire a dire: no, noi non è giusto estradare Battisti. L'avete dimenticato, ve ne sbattete adesso, i vari Massimo Carlotto, Vumingo, tanti altri che hanno espresso solidarietà per anni e hanno protetto dall'esterno dicendo che è uno scrittore perseguitato. L'avete paragonato a uno perseguitato da uno stato feroce come lo stato italiano. Vi dovete vergognare per questa cosa qui, per quello che avete fatto e per quello che avete scritto. Vi dovete vergognare e adesso dovete avere il coraggio, dato che siete scrittori ben pagati dalle case editrici importanti italiane, dovete avere il coraggio di venire fuori anche adesso che il vostro amico è in disgrazia e potrebbe essere estradato. Dovete venire fuori a dire: Battisti non è giusto che sia estradato in Italia perché è un perseguitato politico. Io voglio vedere il primo che viene fuori. Poltrini, scusami, sei una brava ragazza. Poltrini, sei un'amica dei cristiani ed è morta. Intervengano i commessi. Poltrini, ed è morta. La Zanzara. Vorrei dire alla signora Balducci, presidente di Assovegan, che se veramente la vita di un pesciolino vale quanto la sua, faccia lo scambio, entri lei nell'acquario e liberi un pesciolino. E anche tutte le iene vegane, entrate nell'acquario, scambiate la vostra vita e liberate i pesciolini dalla gabbia di Fazio. Pizzeria, tavolo di due signore con il cagnolino, per carità, niente da dire, amo i cani pure io. Vado su a prendere i piatti, la signora ha il telefono e passa il telefono al cane. Saluta papà, gli dice, digli ciao a papà. Ma come cazzo sta la gente? stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Zanzara. Cosa c'avete stasera? Non vi siete manco fatti una sighetta che siete tutti nervosi? Notte di luna piena. Gli zingari sono in apprensione. Sanno che sarà una notte di caccia e loro saranno le prede. Ma non sanno dove e come colpiremo. Quando sentiranno i tamburi si troveranno a cospetto della maschera da lupo e delle maschere da guerra delle tigri dell'Asia e non potranno sfuggire al castigo. Vedrai che ti arriva la denuncia, bastardo che sei altro, stronzo che sei altro, vedrai che ti arriva la denuncia, stronzo che sei altro. Ciao! Ma dove cazzo abita Belluno sto faccia da culo di Paco? Paco da Belluno! Allora, caro David, io per prima cosa, dopo questa interruzione, che come al solito, questa è la trasmissione più interrotta d'Italia, io dico. Più interrotta d'Italia, una delle più ascoltate, ma anche una delle più interrotte. Vuol dire che è molto seguita. No, una delle più interrotte, ma no, per cose che riguardano il palinsesto, cose immodificabili da anni per motivi a me sconosciuti, cose incredibili, cioè cose pazzesche. Bisogna appoggiare questa cosa, ottimo, perché mi pare ben costruito. Io chiamerei. Ah no, scusami. Chiamerei il l'assessore a Genova, che si chiama, mi sembra, come minchia si chiama, che mi sono scordato. No. Garassino, sì, che ti sta sicuramente molto simpatico. No, evita. No, lo voglio chiamare. Il quale ha proposto una cosa che è ottima, direi. Non solo ottima, una cosa, una provocazione, certamente. Vuole fare pagare la tassa di soggiorno agli immigrati che arrivano. Cioè, tot immigrati, 2,50 euro di tassa di soggiorno. Sì, pronto? Assessore, sono Cruciani, buonasera. Oh, buonasera. Buonasera, come andiamo? Ma sempre in trincea, direi, a giudicare insomma da tutto. Caro Parenzo, sai che vuole fare il signor Garassino, no? L'assessore alla sicurezza, mi lo sembra. Lo so, no? Perfettamente, gli diamo l'occasione per chiedere scusa e per scusarsi con l'opinione pubblica. Chiedere scusa di cosa? Ma perché chiedere scusa? Non ho capito. All'opinione pubblica? Ma perché uno vuole mettere la tassa di soggiorno sui migranti e deve chiedere scusa? È una battuta infelice, mi auguro. Ma la vuole mettere sul serio sta tassa di soggiorno? Ma se vuole gli rimando tutti a casa sua, ad esempio, potrebbe essere un'idea. Vediamo un po'. Eccolo. se voi fate così buonisti quando dovete tirare fuori i soldi di tasca, perché fare i radical chic col portafoglio pieno è facile. Io non ho capito bene, Parenzo, perché mettere una tassa di soggiorno su persone che arrivano, che non sono residenti, dunque, è uno scandalo. È una provocazione, va bene per i turisti. La tassa di soggiorno si usa per i turisti, cioè le persone che hanno facoltà e possibilità di pagare, vanno in visita a Genova e pagano. Ma il rifugiato, il richiedente asilo, il richiedente felicità, se in più lo tassi, perché deve essere una colpa quello di essere scappato. Ma non paga lui, non paga lui. È un volontario turista. Non scappano dalle guerre. Poi se vede che sono 1,85 m per 80 kg, lei dovrebbe sapere, anche perché ha studiato la storia, ha visto le foto di quelli che sono usciti da Auschwitz, che pativano la fame, come erano pelle e ossa. Questi hanno tutto meno che quello di scappare da una guerra. Cioè, ma guardi, lei dice che paragone indegno che ha fatto. Se è ovvio che per fare quella traversata del mare devono essere persone che sono forti e vigorose, bene, come quelli che entrarono nei campi di concentramento erano forti e vigorosi, infatti sono sopravvissuti in quelle condizioni che lei ben ricorda. Però, scusa, ma che c'entra il paragone della magrezza del campo di sterminio con la Libia? No, sta dicendo una sciocchezza megagalattica. No, sta dicendo semplicemente che... Stavo semplicemente dicendo che se uno li guarda non sembrano persone che abbiano patito la fame, questo era. Cioè, secondo lei arrivano qui solamente persone che non hanno nulla a che fare con le guerre, con la sofferenza, eccetera? Non lo dico io, lo dicono i dati. Però scusi, assessore, voglio capire una cosa, chi paga questa tassa di soggiorno? Le associazioni che le ospitano. Ah, ecco, dunque, le cooperative, eccetera, eccetera. La Profugopoli, cioè quelli che secondo lei... Attenzione, io ho lanciato un'idea che voleva essere anche una provocazione per mettere il dito su una piaga, cioè sul fatto che Genova da più di un anno e mezzo, due, fuori quota massima di 700 persone, che dovrebbero essere al massimo 1.700, sono 2.500. Ma lei sogna una Genova nella sua testa, no? Di assessore della Lega, eccetera. Sogna una Genova completamente libera da migranti? Io sogno una Genova che prima pensa ai suoi cittadini e poi pensa agli altri, come è giusto che sia un amministratore che amministra. Cioè, sarebbe meglio che non ci fossero, diciamo, migranti in cerca di lavoro. Cioè, questo è il punto. Sicuramente sì. Parenzo, non ho capito se questo qua è razzismo, secondo te. Ma che razzismo? No, no, per Parenzo. Ma sicuramente. Ah, è razzismo. Sicuramente, sicuramente è razzismo, ma sicuramente. Cioè, è un modo, sì, per carità, poi il termine sarà abusato. Cioè, lei, quindi, 4 milioni di disoccupati italiani non gliene frega assolutamente una mazza, giusto? Sì, diciamo che non è che si può fare, non è che si può dare ospitalità a tutti quelli che vengono. Non è che si può fare un paragone sempre tra 4 milioni di disoccupati e i migranti che arrivano, perché non è che i lavori che vengono fatti sono. Io devo pensare ai miei 4 milioni di disoccupati in Italia prima di pensare a tutto il mondo intero. L'Italia non ha la capacità economica di poter assorbire una quantità così enorme di persone a spese nostre. Vabbè. Ma questo è un dato di fatto. Ma quale così enorme? La invito a prendersene un migliaio a casa sua, che sicuramente. Ma ancora con questa storia di a casa mia? Ma che vuol dire a casa mia? Ma che a Genova è comodo fare il pulizio col culo degli altri, no? Ecco, è la stessa ecco cosa, la raffinatezza del nostro assessore. Ma che c'è? Ecco la raffinatezza del nostro assessore. Rende bene l'idea. Va bene, arrivederci, assessore. Arrivederci, buonasera. Arrivederci. Ciao Giuseppe, io ti voglio bene. Io ti voglio bene, quel bastardo, questo bastardo che hai accanto, questo schifoso, sei un gabinetto schifoso. Mentre lei sta chiamando qua, a casa sua, sì. Sua moglie si sta divertendo. Mia moglie è qua accanto a me, bastardo, guarda nella puttana di tua moglie, perché tu sei riccione, tu sei, querelami, merda, querelami. Tu sei riccione come Macron, tu sei riccione come Macron, ispiro come Macron, ispiro come Macron. Ispiro vuol dire fatto da tante cose. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento la Zanzara. Io vorrei capire il senso del vostro stare in radio. A che cazzo servite voi due? Ma la nemichi vestra morta. Noi stiamo diventando stranieri nel nostro paese. In questo piccolo fazzoletto di terra, piccolissimo, stanno arrivando ciurme, carnaio dall'Africa. Questi da un'Africa immensa hanno prolificati con i loro cazzi duri a chiavare, a più non possa, a più non possa, hanno cagato figli, figli, figli, li stanno portando qui, qui, qui. Li stanno portando qui, qui, qui, qui. Io questi negri li faccio sparire. Tu sei la vergogna d'Italia, tu sei una vergogna, sei bastardo che sei altro. Cruciani, Cruciani, ma poi com'è finita la questione di quel rotto in culo di Sgarbi che vale più dell'imprenditore con la Lamborghini? Spero che gli abbia fatto un gran culo in tribunale in realtà, così la smette di fare il bulletto in giro. Il bulletto, Sgarbi il bulletto dei miei coglioni. Io vorrei capire il senso. Beh, anche noi vorremmo capire il senso ogni tanto della vita. Il senso di questa trasmissione è sotto gli occhi di tutti, è un grande spazio di libertà. Come io ho detto ieri e lo ripeto, regalo questo slogan a questi signori che gestiscono la baracca. La radio dei padroni, ma senza padroni. In realtà non è proprio così, esattamente. Bellissimo. Diciamo, è la radio con una trasmissione senza padroni, diciamo. La radio dei padroni con una, soprattutto, però è troppo lungo, sarebbe, no? Troppo articolato. Però lo slogan è lungo, questo. Lungo, lungo, lungo. Troppo lungo. Allora, riduciamolo così. La radio dei padroni senza padroni. Quelli che mi scrivono non è vero, le banche, eccetera. Ragazzi, voi non sapete un cazzo. Non sapete che noi abbiamo la testa libera, non ci facciamo condizionare da nessuno. Le banche, lo sapete le banche. Lo sapete quante volte mi ha hanno detto fai questo, fai quest'altro, dovresti fare questo, dovresti evitare questo, dovresti non dire quella cosa lì, dovresti non parlare ma di quello. Mai, ma non ci provano neanche più, no, ormai ci provano figurati. Poco, però lo sapete quante volte me l'hanno non detto? Non ci provano più perché non gli... Non che fai, ti interrompi, che fai? No, non trovano sponda. No, dico, stavo calibrando, calibrando le parole, perché ora secondo me non conviene a nessuno chiedere, inserite per cortesia, inserite, cioè se uno ti chiedesse e ti dicesse, no, io immagino, scusa, per cortesia, potessi inserire quell'ospite, forse non conviene inserire quel tal ospite in un contesto nel quale, capito? Questo mi pare in un contesto dove ci sono i tipi da zanzara. Vai ragazzi, vai. Bravo, bravo. Tipi da zanzara. Giovanni da Foggia. Dai. Sì, buonasera, ciao Crucia. Ah, Giovanni, questo è il numero uno, sì, Giovanni, dimmi. Sono Giovanni, il fascista, sì, fascista. Viva il Duce, sempre viva il Duce, sempre. Fino alla consumazione delle mie ossa. Voglio dire a quel demente che sta fianco a te, dimmi. I comunisti in Italia hanno percepito i soldi dalla Russia quando hanno formato il questo Partito Comunista. Questo è vero, questo sporchi, certo, comunisti. Questo è vero, questo sporchi, certo. Comunisti, rubli, sporchi, rubli, sotti, rubli. E ti rubli. Voglio ricordare ottimi, che io tagliavo rubli. La falce e martello, tagliavo la stella e il resto di quella sporca bandiera la andavo a mettere sotto il culo delle vacche. La Costituzione che dici tu, sì, dove certo. Te la devi mettere, dove? Te la devi infilare nel buco del culo. Questa Costituzione Trotto. Grazie alla quale lei parla, caro Trotto, signor fascista, con i giorni contati. No, con no, i giorni attenzione, contati. Fermi tutti. Sto a Reggio Emilia, sto andando a Reggio Emilia. Reggio Emilia, patria del tricolore, patria rossa Reggio Emilia, molto no, bene. Questa molto è la bene. Nostra patria, no, la tua, nostra. Fai parte di un'altra patria. Sì. Ma in che anni siamo però in questa trasmissione? Ma in onda quando esattamente? E tu fai parte di un'altra patria, vai a fare in culo dall'Italia tu, grazie, porco grazie, comunista grazie di merda. Ma perché Giovanni, perché? Bandiera rossa la trionfera, bandiera rossa la trionfera. Bandiera rossa, fascetta nera, fascetta nera, fascetta nera, sarebbe faccetta quella bella abissina, fascetta nera, il nero, il diavolo, io ti brucio nel... Ti porto con me nella caldaia della Ferriera Brescia e ti butto là dentro. Hai capito butto. Che brava persona io ho telefonato. Là dentro. Tu sei nella mia pancia fascista. Ha detto grazie mamma, non c'è bisogno che me lo dicevi. Ma che perché bella io avevo già nel DNA di essere un fascista. Ma e che bella sono famiglia. Di essere ma che fascista. Bella famiglia, ma che bella famiglia. Bella complimenti. Famiglia la tua. Bravo, bravo. Brutto stronzo. Bene. Cosa faresti con i signori Rom, Giovanni? Io con i signori Rom non ci parlo, non lo so. No. A me non mi interessa dei Rom, non mi interessa dei zing. Perché se devo dire dei Rom, dei Zingare, giù a Foggia, a Campobasso, quello che sono venuto a sapere, per carità, ma cosa è venuto a sapere? Carità, ma che sei venuto a sapere? Delle indagini, cosa è meglio fatto? Non parlare. Tipi da zanzara. Bene ragazzi, Giacomo provincia di Latina. Ma Giacomo, riascoltarlo è terribile. Non vedevo l'ora, che sono giorni, mesi che non vi sento. Sì. Volevo chiedere una cosa a Parenzo, no? Parenzo? Non c'è, è andato via. C'è però sai, lasci c'è un messaggio. Sai, c'è sai. Tu mi devi dire una cosa, voglio cercare di essere educato, però fatti cazzi sì. Tua se una persona decide di andare a prostitute. Ci sei fin qui? Ma io me li farei, ma se uno chiama qui e condivide con noi questo suo desiderio per me perverso e sanzionabile, è evidente che devo intervenire. È evidente che è un disvalore dire andate allora, a prostitute. Okay, è evidente che sfrutti una donna. Se tu avessi un figlio e viene a scoprire che va a prostitute, cosa faresti? Beh, starei malissimo, andrei lo manderei in psicoterapia. Cercherei di capire perché. Psicoterapia perché va a prostituire tuo figlio. Sì, cercherei di capire perché, cosa gli ma manca. Ma lo porterò io a puttane. Cosa gli ho grande. Insegnato? Lo zio, tu no, non ci sarai perché zio, sei già anziano. Lo zio Cruciani lo porterà a puttane tuo figlio. Lo zio Cruciani non metterà piede mai a casa mia. Ma lo zio Cruciani, che è uno zio maiale, evidentemente, non è l'orco cattivo, è barba blu. Ho già un feeling con tuo figlio, ricordati. Mi chiederei. Ho già un feeling. Questo è vero, questo ho già vero. Un piccolo mi feeling. Chiederei figlio, dove ho sbagliato. No, allora, comunque per rispondere a questo qua, mi chiederei dove ho sbagliato, capito? Mi chiederei dove ho sbagliato. Comunque ho già capito dove vuole arrivare. Lei è uno di quelli che va a prostitute. Quindi è un maiale. Che hai da dire? Poi, che hai da dire? Allora, il discorso sulla tassa sugli immigrati, secondo me è giusta. Anche perché stanno portando anche la malaria qui vicino da noi. Anche la malaria, sì. Sì, la stanno portando sta la malaria, sì. La malaria, lei sta portando una cattiva aria in questa trasmissione, non la malaria. Lei sta portando una malaria, nel senso di una cattiva aria. Che proponi? Che proponi? Che proponi? Che proponi? Dimmi che proponi. Che propongo? Io farei la rivoluzione, io bloccherei proprio la tutti i sistemi bancari, niente più soldi, cioè della serie di meraviglia. Niente più soldi a chi? A tutti, anche a lui. Quanti, così ci incazziamo una volta per tutte. Cioè, che cosa vuol dire la rivoluzione? Che bella idea. Che cosa vuol dire che la rivoluzione? Idea geniale. Scusami, che vuol allora, dire? Se io dico. Sei passato dai migranti alla rivoluzione, spiegami. No, ma io infatti dico una cosa per volta. No, lui dice: se il popolo è affamato, si arrabbia e si rivolta. Questo lui dice. Quindi affamiamo il popolo. Questa ecco, infatti, un idiota. Ho capito l'idiota cosa ha detto. No, no. Vedi? Io ormai entro nella testa dell'idiota, lo so, ci sono dentro la testa dell'idiota ormai. Sì, voglio vedere se tu stai senza 20 euro cosa faresti. Beh, perché tu sei senza 20 euro. Ma no, infatti, beh, no, non sto dicendo questo, però per far incazzare l'italiano. No, lui ti sta comunque dicendo, se tu affami le persone, se le affami queste si arrabbiano e faranno la rivoluzione con le armi. Questo lui sta sostenendo, non questo pazzo scatenato. Armi, non ho detto con le armi, io non ho detto, l'ha detto lui semmai, non senza io. Senza le armi. Giacomo, scusa, ma tu dalla voce mi sembri quello che una volta sei intervenuto a dire quella c'ha due chiappi, amore mio. Non sei tu, non sei tu. No, assolutamente. Cioè, ogni tanto ci vai a mignotte, però. No, mai. Nemmeno, no. Che mestiere fai? Ma chi è che parla sotto? Chi parla sotto? No, c'è sempre mio padre, per voi te lo passo. Ma, no, ah, no, voi siete due fascisti di Latina, o sbaglio? L'hai capito? Sì, però eccoli, padre e figlio. Noi però ci, ma che meraviglia di famiglia. Noi ci limitiamo perché sennò iniziamo a dire li bruciamo tutti, negri, rom, tutti. Ma che è quello che pensi? Che è quello che pensi però in realtà. Sì. Scusa, però per dare seguito alla promessa di Parenzo. Cioè lei pensa davvero che lei vorrebbe davvero bruciare delle persone? Sì, me ne frega niente, me ne frega un cazzo. Ma anche tuo padre? Anche tuo padre la pensa così? Sì, no, lui leggermente un po' più diverso, un po' più. Cosa? Più moderato. No, un po' più moderato, esattamente. Cioè, tu sei Mussolini, è una famiglia meravigliosa. Tu sei Hitler, no, lui Mussolini. No, io non lo volevo dire, io ho proprio la svastica tatuata sul petto. Sì, ma mandamela scusami, noi l'ho abbiamo mandata sul WhatsApp, Hai non mandata, è proprio la svastica originale, è quella induista. Vabbè, okay, perché logicamente quella originale non la fanno per antisemitismo. Ma chi ti ha detto che non la fanno? È piena di gente che si è fatta tua le svastiche. No, la svastica è quella originale. Però scusa, Parenzo, per dare seguito alla promessa di Parenzo della scorsa settimana, che è quella del rastrellamento delle persone fasciste, no? Casa rastrellamento casa. Democratico, no, cioè andare no, a prendere non mi disse cose perché davvero. Così ha detto, sì. Parenzo, l'ha detto Parenzo. Allora, ho io detto direi che in base alla legge, se uno si proclama fascista, vi verremo a prendere casa per casa, strada per strada, condominio per condominio, citofono per citofono, cortile per cortile, stabile per stabile, quartiere per quartiere, arrondissement per arrondissement. Mio padre ti sta dicendo che devi andare a fanculo. Capito? Ma sai che è proprio una famiglia incommiabile la vostra? È una bella famiglia proprio, sai? Bella. Magari si definiscono padre patrioti figlio. Loro, si definiscono una famiglia di patrioti, no? O no? Ma magari, no, io non mi esprimo. Hai detto che bruceresti tutti. Però scusami Giacomo, però io direi una cosa. A questo punto, tanto per dare seguito, ripeto, alla roba di Parenzo, io direi di intonare, che tu puoi intonare una canzoncina del regime. Non so, faccetta nera. Aspetta, quella la faccio cantare a lui. Falla cantare tu, padre, così. Parenzo, mio padre, aspetta, vai. Faccetta nera. Vai. Signore? E tu dall'altipiano guardi il mare, amoretta che sei schiava tra gli schiavi, poi vedrai come in un sogno tante navi, e il tricolore sventola per te, Andiamo a prenderli uno per uno. La polizia bussa a casa sua. Troppo bella sta canzone. Allora, praticamente, Parenzo, volete dare anche l'indirizzo? Direi di no, perché così facilitiamo le cose a Parenzo. Vi veniamo a prendere, vi veniamo a prendere con la polizia e in base alle nostre leggi vi arrestiamo. Dai, Parenzo. Arrivederci, famiglia fascista. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Ragazzi, non è una finta, è tutto vero, cioè, comunque tutto... appunto è vero, ma è macchiettistico, è tragicomico, capito? Perché questi tu questa in famiglia galera qui, questo è folklore, no, ma è una galera, io non li voglio mettere in galera, li voglio sanzionare e magari, ma ovviamente non in galera, li vorrei mandare in un centro di accoglienza per migranti, li vorrei mandare in un centro per sì, o in un centro per malati mentali a pulire per terra, li vorrei mandare a fare li vorrei mandare in visita a fare il culo, a fare quello dopo, però vorrei mandarli per un mese ad Auschwitz, ad esempio, a Stefano vedere ogni dettaglio di quel campo di sterminio. Ad Auschwitz, non da credo. Quello che ho sentito, godono. Stefano, se da ci Roma. Vanno d'inverno, non credo. Ciao. Stefano, tu sei andato d'inverno, sei stato rinchiuso anche. Stefano, tra l'altro. Stefano, vai. Ok, allora in pratica volevo dirvi che io ho ascoltato sempre la vostra trasmissione. Bene, mi allora, piace, sì. È interessante tutto quello. Sì, vabbè, allora dai, però arriviamo al dunque. Sì. Arriviamo al dunque. Il dunque è questo: che spesso l'ascolto in auto con la mia famiglia. Sì. Poi bene. Ci stavo portando mio figlio di 9 anni e mezzo da una parte. No, avevo la radio accesa, deve cambiare canale. Cose interessanti. No, che cambia canale? E, poi è partita il discorso che sono. Avete cominciato a dire parolacce come al solito, insomma. Senti, amico mio, sono le 20:49. Cosa vuoi, Stefano? No, domanda, dico, cosa vuoi? Dico, punto interrogativo, cosa vuoi? Di più, anche io dico che sono un ascoltatore. Amico come, mio, come io altri. Conosco famiglie con figli che se ne sbattono di queste cose. Ripeto, siamo più volgari noi. Siamo più volgari noi o quelle facce di politici, per esempio, che assumono la gente, anzi, non assumono la gente alla Camera o al Senato e poi mettono le mani addosso alle stagiste vero, e assumono la gente in nero, eccetera. La volgarità con è quella, non parte. Qualche cazzo, qualche pene, no, ecco, l'ano, la prostituta. Sono tanto tuo figlio, buona... queste cose, tua figlia, no, le capirà subito, allora, le apprenderà subito. Con il 90% delle allora che vuoi? Chiamate che arrivano, però almeno voi un minimo potreste moderare il linguaggio, perché sennò io se porto mia moglie abbassa mio un attimo, devo cambiare canale. Ma non è vero, non è vero, cioè, è pieno di bambini che se ne di genitori con i bambini che se ne fottono, basta con questo moralismo, i bambini se ne fregano, chiedono e uno poi se vuole spiega, se no vanno sul vocabolario. Ciao ragazzi, a domani. Ciao. Scusi signorina, c'è qualcosa che non va? Ma non mi rompere i coglioni, stronzone! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Là ci vuole la nerchia.